Letture di Radio 24. La più piccola proprietà privata di New York è un triangolo che ha una base di 65 cm e i due lati di 70 cm. È noto come Triangolo di Hess e la sua esistenza è dovuta a un errore commesso durante un esproprio. La storia di questo triangolo posto sul marciapiede all'angolo tra Christopher Street e la 7th Avenue, di fronte all'ingresso al Village Seeger's Store, inizia nel 1910, poco dopo la storica inaugurazione del New York City Subway, la prima linea sotterranea della città e uno dei più antichi sistemi di trasporto pubblico al mondo. In quell'anno l'amministrazione comunale decide di abbattere circa 300 edifici nella zona per costruire la nuova linea della metropolitana e ampliare la 7th Avenue. Una delle vittime di questo progetto è David Hess, un costruttore immobiliare originario di Filadelfia, proprietario di un palazzo di 5 piani chiamato The Voorhees. Hess si difende strenuamente per conservare l'edificio, ma 3 anni dopo la proprietà viene espropriata insieme ad altre storiche residenze e negozi negli 11 isolati, compresi tra Greenwich Avenue e Varick Street. E nel 1914 tutto ciò che rimane della costruzione è un piccolo triangolo. Dopo l'atto di espropriazione, infatti, si scopre che è stato dimenticato per errore. Quando le autorità se ne accorgono, cercano in tutti i modi di convincere Hess e i suoi eredi a devolvere il pezzetto di terra al pubblico per costruire un nuovo marciapiede. L'ex proprietario, però, non ne vuole sapere. Apre una battaglia legale in tribunale rivendicando i propri diritti. E vince. Ma non è tutto. Poiché per chiarire la sua volontà, il 27 luglio del 1922 fa ricoprire il triangolino con un mosaico di piastrelle gialle e nere insieme alla targa che rimane ancora oggi e porta la scritta di proprietà della tenuta Hess, che non è mai stata ceduta al pubblico. Il giorno dopo il New York Times dedica un articolo alla vicenda, precisando che il mosaico ha suscitato notevole interesse. Si tratta del più piccolo pezzo di proprietà privata della città, continua il giornale, e nei libri fiscali è valutato $100. Nel 1938 il triangolo di Hess, come ancora oggi è conosciuto, viene venduto al negozio di sigari antistante per $1,000, circa $17,000 attuali. Anche i nuovi proprietari del Village Seeger's Store hanno deciso di mantenere la tradizione e lasciare al suo posto la targa, in ricordo della battaglia di Hess per conservare la sua tenuta. Eppur se il mosaico viene calpestato ogni giorno da migliaia di persone, continua a commemorare la testardaggine del magnate immobiliare di Filadelfia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Valeria Robecco, La proprietà privata più piccola di New York, un triangolino di cemento davanti a un locale, da Il Giornale del 5 ottobre. Radio 24, verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Letture di Radio 24. L'Italia è tristemente famosa in tutto il mondo per la scarsa qualità del servizio postale e per i frequenti casi di corrispondenza smarrita o rubata. Mentre il business di Poste Italiane si concentra sempre di più su servizi bancari, telefonia mobile o assicurazioni, è in arrivo una novità che rischia di rendere ancora più complesso il servizio di consegna delle raccomandate. La notizia è che si fa tutto o quasi al telefono e che i tempi non sono lunghissimi per ottenere le informazioni che si desiderano. Sarà una voce a spiegare cosa fare. Parte così la stagione della consegna personalizzata, il nuovo sistema di Poste Italiane per ritirare le raccomandate. Rivoluzionate le modalità del servizio, anche dal punto di vista culturale, pensando a chi è stato da sempre abituato a ricevere avvisi di letture, documenti o plichi con una comunicazione scritta. Questa opzione resta, ma diventerà in prospettiva la meno funzionale. La novità è dunque l'avviso di giacenza, cioè quando il postino non trova in casa l'interessato. Si passa dalla cartolina lasciata nella cassetta della posta al telefono. Basterà digitare un numero verde e attraverso una serie di indicazioni si verrà indirizzati verso il tipo di corrispondenza che si è in attesa di ricevere. Come? Con il più classico dei sistemi, la voce guida degli operatori. Digita 1 per la corrispondenza, 2 per i pacchi, 3 per gli altri prodotti. Lettura della normativa sulla privacy. A quel punto sono 2 le opzioni a disposizione del cliente. Chiedere che il postino provi a riconsegnare la raccomandata il giorno dopo, solo in orario di lavoro e con il rischio che non trovi magari nessuno in casa, ricominciando così la trafila, oppure chiedere che la raccomandata venga messa a disposizione del vostro ufficio postale dalle 10:30 del giorno successivo alla telefonata, escluso il sabato. Ma cosa succede se non si utilizza il sistema numero verde? La raccomandata viene depositata agli sportelli dell'ufficio postale di competenza dalle ore 10:30 del quarto giorno solare successivo al rilascio dell'avviso, sperando, con un po' di fortuna, che non capiti di sabato o domenica, perché altrimenti bisognerà aspettare il lunedì successivo. Uno spreco di tempo se la raccomandata che si aspetta è urgente. A conti fatti, potreste ritirarla addirittura una settimana dopo il suo arrivo. Ma se optate per la soluzione più ragionevole del deposito all'ufficio postale del giorno dopo, come accadeva in passato, per evitare che venga depositata di default solo dopo 4 giorni, dovete fornire al call center il numero di codice della raccomandata 1 contenuto nell'avviso di giacenza, oltre a nome, cognome, indirizzo, CAP del comune e numero di telefono del destinatario. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Visani, Raccomandate, per ritirarle ora bisogna telefonare, dal venerdì di Repubblica del 21 ottobre. In Italia i giornalisti sono troppo di sinistra, o per meglio dire, sono ideologicamente squilibrati rispetto al resto del paese. A sostenere questa verità è forse qualche campione della reazione in agguato? Ma che... Lo hanno appena scritto in uno studio Luigi Curini e Sergio Splendore, 2 politologi dell'Università di Milano, entrambi collaboratori della rivista online Lavoce.info. Di certo non ascrivibile alla destra. Curini e Splendore si sono basati su 2 sondaggi realizzati nel 2015 dal centro The Worlds of Journalism Study e da Eurobarometro, l'ufficio demoscopico del Parlamento europeo. Sovrapponendo le risposte di un campione significativo di giornalisti a quelle dell'intera popolazione italiana, i 2 politologi sono giunti a una conclusione. Il risultato? I giornalisti italiani collocano se stessi in un ambito ideologico che è in grande prevalenza di estrema sinistra e di sinistra, con quote soltanto marginali tra centrodestra ed estrema destra. Ben diversa è la percezione che hanno di sé gli elettori italiani, che invece si definiscono in grande maggioranza di centro, e per il resto si dividono quasi equanimamente tra sinistra e destra. Lo studio è sicuramente rappresentativo della realtà, dice Curini a Panorama, e la distribuzione ideologica dei giornalisti appare marcatamente posizionata più a sinistra rispetto a quella degli italiani in genere. Scavando nei dati, si scopre che i lettori più assidui sono anche quelli che hanno una posizione ideologica in media più vicina a quella dei giornalisti. Insomma, in Italia anche i lettori sono più di sinistra. Resta il fatto che nel loro insieme e negli ultimi 15 anni, gli italiani interpellati da Eurobarometro hanno dichiarato un livello di fiducia nella stampa pari generalmente al 43% e quindi 4 punti sotto la media europea. Forse è anche colpa di quel conformismo sinistrorso che fu descritto in un libro del 1990, L'Eschimo in redazione di Michele Brambilla. Non l'avete letto? Probabilmente perché fu poco recensito e molto criticato, soprattutto sui giornali di sinistra. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I giornalisti sono più a sinistra degli italiani, da Panorama del 26 ottobre. Frances Hodgson Burnett è nota soprattutto per i suoi romanzi per ragazzi, dai quali sono stati tratti film di successo: Il piccolo Lord, Il giardino segreto, La piccola principessa. Pochi sanno però che la Burnett è stata anche un'apprezzabile autrice di romanzi rivolti a un pubblico adulto, 2 dei quali sono stati recentemente tradotti in italiano e pubblicati dalla casa editrice Astoria, Un matrimonio inglese e L'imprevedibile destino di Emily Fox Seton. Quest'ultimo racconta la storia di una donna di buona famiglia, ma che vive in condizioni di indigenza. Nell'Inghilterra di inizio secolo scorso, le possibilità di trovare un buon lavoro per le donne che si trovavano nella sua condizione sociale erano scarse. E a 34 anni Emily si rende conto che le possibilità di cambiare vita grazie a un buon matrimonio sono ancora più esigue. Ma l'intelligenza e i buoni sentimenti di Emily riescono a conquistare Lord Walderhurst, un nobile di mezza età ambito da tutte le ragazze in cerca di marito. La vita di Emily cambia quando, grazie al matrimonio, da umile dama di compagnia diventa una ricca marchesa. La sua condizione sociale cambia, ma non il suo carattere umile e generoso, che tuttavia non è sufficiente a proteggerla dalle trame di Alec, cugino di Lord Walderhurst, che mirava all'eredità e che da questo matrimonio si sente derubato di un patrimonio che ormai considerava suo di diritto. Anche Alec è un diseredato, ma a differenza di Emily non accetta il suo destino, rifiuta l'idea di dover lavorare per condurre un'esistenza che non ritiene all'altezza del suo rango ed è pronto ad usare qualunque mezzo per entrare in possesso del denaro di suo cugino. Durante un viaggio all'estero di Lord Walderhurst, il cugino Alec e la moglie anglo-indiana Esther cercano più volte di uccidere Emily, ma i tentativi falliscono. Anche il tentativo di fare annegare Emily non è riuscito. E la notte successiva Esther torna a domandarsi se quello che lei e suo marito stanno facendo sia giusto. Una riflessione quanto mai attuale sull'odio che nasce quando si desidera qualcosa o qualcuno che non si può avere. Esther se ne stava al buio, a sentire l'alito della notte sui fiori nel giardino e a pensare a tutti gli assassini di cui aveva sentito parlare. Rifletté che alcuni di loro erano state persone molto rispettabili e che tutti dovevano aver attraversato un periodo in cui a poco, dall'essere persone rispettabili, erano diventati individui nella cui mente si era insinuato un pensiero che fino a poco prima avrebbero ritenuto impossibile, la cui sola idea avrebbero rifiutato con sdegno. Era sicura che il cambiamento si manifestasse in modo graduale. All'inizio doveva sembrare troppo folle e assurdo, una sorta di scherzo dettato dalla rabbia. Poi lo scherzo si riproponeva ancora e ancora, finché alla fine smettevano di cacciarlo, non ne ridevano più e iniziavano a tenerlo in considerazione. Cose del genere accadevano sempre perché qualcuno voleva, o non voleva, molto una cosa. Il pensiero di essere costretti a vivere senza o con questa cosa li faceva impazzire. Uomini che odiavano una donna e che non potevano sbarazzarsi di lei, che detestavano vederne il viso, gli occhi, i capelli, udirne il suono della voce e dei passi, e impazzivano per la vicinanza e al pensiero che non si sarebbero mai liberati. Questi uomini ordinari, o relativamente piacevoli, avevano in passato raggiunto per gradi il punto in cui un coltello, un colpo di pistola, una botta pesante non solo erano sembrati loro possibili, ma persino inevitabili. Persone che erano state trattate male o che avevano affrontato cose terribili a causa del bisogno e del desiderio, avevano raggiunto il momento in cui si erano prese con la forza quello che il fato non voleva loro concedere. La mente di Esther era così frastornata che si chiese se seduta a pensare a cose del genere avvolta dal silenzio non stesse delirando un po'. Da settimane viveva in uno stato di tensione così intenso che le sensazioni sembravano non avere più nessun collegamento con la normalità. Sapeva troppo e al contempo non era sicura di niente. Ma lei ed Alec erano come le persone che iniziano con un brutto scherzo e si lasciano trasportare. Era impossibile non pensare a ciò che poteva succedere e a ciò che poteva essere perso per sempre. Se questo pomeriggio la ringhiera non fosse stata provata, se la grande e sciocca Emily quella sera avesse riposato in pace tra le alghe. «Tutti dobbiamo morire», disse. In pochi minuti sarebbe finito tutto. Dicono non sia molto doloroso. Le labbra le tremarono e si strinse forte le mani tra le ginocchia. «Così pensa un assassino», mormorò con tono lamentoso. «Eppure all'inizio non ero una persona cattiva». Iniziò a vedere cose. La principale era una sorta di visione di Emily e dell'aspetto che avrebbe avuto tra le alghe nelle profondità dell'acqua. I capelli castani si sarebbero sciolti e forse si sarebbero aggrovigliati sul viso bianco. Avrebbe avuto gli occhi aperti e vitrei o socchiusi. E il sorriso fanciullesco, quel sorriso che sembrava così strano sul volto di una donna adulta, si sarebbe cristallizzato e avrebbe affrontato il mondo dei vivi per chiedere con gentilezza cosa avesse mai fatto per venire annegata. Esther era certa che questo avrebbe espresso la sua immobilità senza via di fuga. Com'era felice quella donna. Vederla muoversi con gli occhi pieni di gioia a volte era esasperante, eppure, povera creatura, non aveva forse il diritto di essere felice. Cercava sempre di compiacere le persone e di aiutarle. Era così buona da sembrare quasi ridicola. E a quell'ora avrebbe potuto essere tra le alghe folte e lunghe del laghetto. E non si sarebbe trattato di un incidente, anche se così sarebbe sembrato. Di questo ne era sicura. Davanti all'evidenza della situazione, iniziò a tremare. Uscì nella notte perché aveva bisogno d'aria. Non era abbastanza forte per sopportare la consapevolezza di far parte di una rete che non aveva avuto intenzione di intrecciare. No, aveva avuto momenti di collera e disperazione, ma non aveva mai voluto niente di simile. Era quasi arrivata a sperare che accadesse una disgrazia. Era quasi arrivata a pensare alla possibilità di non fare niente per evitarla. Quasi. Ma certe cose erano troppo malvagie. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del romanzo di Frances Hugson Burnett, L'imprevedibile destino di Emily Fox Seton. A Storia Edizioni, 280 pagine, 17 euro. Lettere aperte, video postati su Facebook, dichiarazioni ai giornali. Sempre più spesso i genitori scelgono l'esposizione mediatica per trasmettere messaggi politicamente corretti che riguardano i loro figli. Ma dietro agli impulsi educativi si nasconde quasi sempre un grande bisogno di visibilità. Ormai sulla via della stigmatizzazione, i genitori ombrello, quelli che vivono la vita dei propri figli facendone le veci, cedono il passo ai genitori tutorial, quelli che invece educano i propri figli per educare tutto il mondo intorno e mentre lo fanno, si filmano. O in assenza di telegenia, pubblicano lettere su Facebook. Il Messaggero dà notizia di una madre che sul proprio profilo Facebook avrebbe pubblicato un video in cui rasa a zero sua figlia, colpevole di aver insultato una compagna di scuola malata di cancro. Lo stesso video, però, era circolato l'anno scorso su alcune testate straniere online, secondo le quali la colpa della ragazzina era essersi fotografata nuda. Dal Messaggero nessuna smentita, ma non importa. Quel video è parso a tutti verosimile perché non passa giorno senza che sulle timeline di Facebook, sulle terze colonne dei giornali online, nei trend topic di Twitter e nel dibattito pubblico, non compaiano madri e padri che hanno commosso il web e sono diventate virali, avvalendosi di testimonial d'eccezione, i propri bambini. Abbiamo accettato che i bambini diventassero testimonial delle campagne dei propri genitori perché sono gli unici della cui innocenza nessuno di noi è capace di dubitare. E siamo così inconsolabilmente orfani di credulità che lasciamo non solo che dei bambini vengano usati come microfoni ed endorsement, ma pure che il mezzo non corrisponda più al messaggio. Un padre che filma i propri figli maschi pazzi di gioia per essere stati accontentati nella richiesta di una Barbie e che spiega loro che li accetterà sempre qualunque cosa sceglieranno di diventare e a qualsiasi cosa decideranno di appassionarsi, che siano le Winx o i Transformers, non sta affatto scrivendo un nuovo capitolo nell'abbattimento dei pregiudizi di genere o della lotta all'omofobia, anche se è questo che è stato recepito. Sta solo concorrendo alle autoproclamate Olimpiadi per il miglior padre dell'anno. Buongiorno, mi chiamo Marino Peiretti. Volevo informarvi che, come sempre, mio figlio quest'anno non ha fatto i compiti delle vacanze. Così comincia la lettera che a settembre è dilagata sui social network ed ha nuovamente aperto la decennale querel sui compiti estivi. Il signor Marino sosteneva con un certo orgoglio che suo figlio, a differenza degli altri pecoroni, questa estate, come tutte le altre della sua vita, era andato in bici. Aveva osservato il padre cucinare, montargli la scrivania e, insomma, fatto un sacco di cose che in nessun modo assomigliavano a mansioni. Alcuni si sono commossi, altri infuriati, ma le reazioni e le riflessioni conseguenti non hanno incluso, come avrebbero forse dovuto, la rilevazione dell'incompatibilità tra esemplarità ostentata ed educazione. E sarà perché tardiamo ad affrontare questo discorso? Sarà che in fondo siamo stati tutti contenti di acclamare i genitori del piccolo Matteo, inventore di Petaloso? Sarà che siamo affamati di esempi che arrivino dal basso, poiché verso quelli che arrivano dall'alto nutriamo una diffidenza ormai politica? Sarà che più pensiamo a come non farci fregare dalle apparenze e più ne siamo succubi, che la sindrome dei genitori tutorial deve essere sembrata ai professori il solo modo per riacquistare credito? A metà settembre un professore milanese ha assegnato ai propri ragazzi la versione Imperatum Adeamus, nient'altro che il testo di Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi in latino. A Londra un professore insegna scienze rappando. Difficile pensare che l'abbiano fatto senza immaginare nemmeno per un secondo che qualcuno dei propri alunni avrebbe ripreso o fotografato la cosa e loro sarebbero finiti in prima pagina da qualche parte. Tuttavia, nel loro caso, si intravede davvero una buona causa. Dimostrare che a scuola, se non c'è speranza di incappare in un professore da attimo fuggente, ci sono almeno diverse possibilità di finire nelle mani di qualche mente brillante. I professori, dopo tutto, devono avvicinarsi ai modi dei genitori dei propri alunni, eppure essere, o fingere di essere, loro complici. Tale è l'invasione proterva cui sono sottoposti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Simonetta Sciandivasci, Cari genitori, smettetela di sfruttare i figli per 15 minuti di celebrità, pubblicato l'8 ottobre sul quotidiano online L'Inchiesta.